13:51 di venerdì 1 marzo 2024. Quello che si nota in questi giorni è una chiara inversione dello spin su tutta la questione, diciamo così, del conflitto israelo-palestinese. I media hanno provato ad occupare più o meno la gran parte della narrazione di quello che accadeva, indicando Israele come la vittima e Hamas come l'aggressore, il che, detto così, è anche corretto, perché in una prima fase è stato così, però poi sono successe molte altre cose che i media hanno a lungo ignorato o sottovalutato, e siamo arrivati ormai a 36.000 vittime, soprattutto civili, della reazione di fatto militare e l'annientamento della popolazione palestinese nei territori occupati, perché di questo, a questo stiamo assistendo. E nonostante il fatto che i media mainstream abbiano steso una sorta di velo su tutta questa vicenda, cioè mentre si ricostruivano a posteriori i fatti del 7 ottobre con nomi, cognomi, storie, fotografie, reportage, inchieste, anche bellissime e fatte molto bene, come quelle del New York Times, ecco, quello che è successo è che dopo abbiamo avuto solo gli elenchi di numeri, freddi numeri. E la domanda che adesso forse dovremmo porci è: ma che immagini, che dati, che informazione ha permesso a tante persone di rendersi conto nel frattempo quello che stava succedendo? L'informazione complottista, le fake news che si trovano su internet, i canali Telegram controllati dalla propaganda anti-establishment, anti-atlantica, anti-americana, ovviamente anti-israeliana, oppure banalmente in molti casi quel lavoro di giornalismo che i nostri giornalisti hanno smesso di fare. Io so solo che il risultato è che la generazione forse più consapevole di quello che succede nel mondo oggi, quella immune dalle tonnellate di rumore che ci arrivano da radio, giornali e televisioni, cioè l'ultima generazione appunto, ha deciso di fare lei notizia andando fisicamente a protestare contro le sedi dell'informazione, anche le sedi RAI, e hanno fatto notizia facendo rumore e anche facendosi manganellare. Ecco, sotto questo profilo, al di là di tutto il tema del diritto a manifestare e della violenza usata dalla polizia, tutti i temi naturalmente importantissimi, però se dovessi essere anche un po' cinico, mi sembra che sia stato un grossissimo autogol quello del governo, perché appunto ha trasformato completamente lo spin della storia. Cioè oggi si vedono in giro molti meno profili sui social media con la bandiera, con la stella di Davide, e il racconto alla fine vincente mi sembra che stia diventando il racconto della storia più importante, che è la storia di queste 36.000 and counting persone che hanno perso la vita, di questi ospedali, queste scuole distrutte da una furia cieca, impunita soprattutto, che ha creduto di poter essere impunita sulla base di una sorta di gigantesco senso di colpa che trova il suo picco, io credo, nella reazione del governo tedesco, che quando alla Berlinale è stato premiato come miglior documentario, un documentario realizzato da un regista israeliano e da un regista palestinese, ebbene, un governo che è stato capace di dire: sì, ho applaudito la vittoria di questo premio, ovviamente era un documentario sui fatti di cui stiamo parlando, ho applaudito solo il regista israeliano, non quello palestinese. Ecco, quando ti rendi conto di quelli che sono gli effetti di un gigantesco senso di colpa che non hanno nulla a che fare con l'affermazione di un diritto e di un principio, capisci proprio che tipo di tempesta, che tipo di malattia colpisca oggi i media e anche tutti i corpi intermedi, i corpi che ci dovrebbero rappresentare.